versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon giovedì 5 di dicembre in quest'Italia con un Parlamento illegittimo, con una legge elettorale che scopriamo dopo 7 anni essere illegittima, con tanti pasticci, insomma. Credo che per le prossime settimane e mesi adesso il problema sarà quanti sono illegittimi e che cosa sarà legittimo di quanto gli illegittimi faranno, loro diranno legittimamente, però tanti paradossi italiani. Oggi però abbiamo una puntata dedicata a un tema che vi avevo anticipato, perché lunedì 9 di dicembre è il giorno di una manifestazione nazionale di uno dei fenomeni dal basso organizzati di protesta. Negli ultimi 2 anni si sono già fatti vivi diverse volte, non solo in Sicilia, una protesta che fa storcere molto il muso al sistema dei partiti, perché la considera ovviamente demagogica, la considera populista, la considera una cosa di oscuri interessi, però essendo una protesta che il 9 di dicembre, lunedì, punta esplicitamente a bloccare un bel po' d'Italia per fare riflettere sulle istanze di chi aderisce a questo movimento e non ne può più delle pretese dello Stato, di come va la politica economica, delle scuse dei politici, eccetera eccetera, oggi Radio 24 gli abbiamo dato i microfoni, gli abbiamo dato stamattina, glieli do anche io volentierissimo oggi pomeriggio, in previsione di questa manifestazione, che è una manifestazione indetta da un movimento il cui nome è evocativo, perché sono i forconi. Sì, esattamente quello strumento con il quale indicativamente ovviamente in campagna si fanno i mucchi di fieno, si rigovernano le superfici e così via, ma come ovvio è uno strumento classico di tutti i tipi di protesta, di rivolta, delle giaccherie contadine, di quelle, insomma, dei vecchi tempi andati, qua non è che si prendevano le armi da fuoco, però ogni tanto dal basso si organizzavano nei confronti dei rappresentanti del potere un bel po' di protestine, per così dire, cosa che oggi, fine della mia introduzione, io spero che non ci siano né danni e violenza alle persone né danni al patrimonio, ma abbiamo con noi il leader del movimento dei forconi, Mariano Ferro, che io ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, Mariano Ferro. Buon pomeriggio a te, grazie. E vorrei innanzitutto che spiegassi, magari a chi ha visto solo qualche riga, non più che quella, sui giornali, quando siete nati, che cosa succede lunedì e perché. Vai. Allora, che cosa succede lunedì? Più o meno quello che è successo in Sicilia, che molti di voi hanno visto, quindi mi viene facile spiegarlo. Per chi non l'avesse visto, noi lunedì ci mettiamo in mezzo alle strade, ci fermeremo nei caselli autostradali, ci fermeremo nelle vie maggiori di traffico, porteremo i nostri mezzi di lavoro, porteremo quello che avevo, porteremo le nostre famiglie, i nostri bambini sulle strade. Perché? Perché come hai detto tu, perdonami se ti chiamo del tu, no, no, prego, tu, prego, prego, prego. Perché come hai detto tu, e l'hai detto benissimo, non ne possiamo più. Non ne possiamo più, perché qui c'è un governo e un Parlamento illegittimi, ormai non lo diciamo noi, l'ha detto la Corte Costituzionale, lo hai appena detto tu, lo confermiamo tutti. Il problema è che io ho sentito la dichiarazione diretta oggi che dice che questa sentenza della Corte Costituzionale farà sì che il governo sarà più forte e che durerà nel 2014, anche perché tecnicamente non c'è tempo di fare una legge. Domando, se la Corte Costituzionale avesse fatto prima, avesse dato prima questa sentenza, il governo Letta probabilmente non esisterebbe. E allora io dico, questa democrazia che è andata a farsi fottere, perdonatemi la frase, e noi vogliamo recuperarla andando sulle strade, per dire a qualcuno, probabilmente sì, perché credo che ormai, non essendo più in democrazia, i sistemi che ci hanno permesso di fare le nostre belle manifestazioni, sit-in, la raccolta firme, tutto quello che è stato, i referendum che sono stati messi sotto i piedi, credo che sia tutto inutile il lavoro che è stato fatto. Oggi io dico, siccome questa democrazia va ripresa, perché oltretutto questa crisi che cosa ha fatto? Questa crisi economica così travolgente ci ha messi con le spalle al muro e noi guardiamo, oltre che il disastro delle nostre aziende, delle nostre famiglie, la perdita di lavoro degli operai, tutta l'economia ferma, guardiamo una classe politica illegittima a governare, chi dovrebbe essere aiutato in questo momento da tutto quello che si può fare, da che può fare uno Stato. Siccome tutto questo non accadrà, perché loro le soluzioni non ce l'hanno, perché noi siamo commissariati dall'Europa, dal Bruxelles, l'altro ieri Olli Rehn ha detto ancora una volta che è scettico su quello che sarà il futuro dell'Italia, si è arrabbiato Letta, ma c'è poco da arrabbiarsi, la verità è quella, noi siamo scettici solo perché c'è un Letta che è illegittimo, che nessuno ha scritto nella scheda elettorale, e siamo arrabbiati perché c'è un signore che viene dall'Irlanda, che è un commissario europeo, e che parla di noi come se fosse lui il nostro eletto, non è così, quindi Finlandia. Ma, senti un po', sì, senti un po', Mariano. Dopo la cosa siciliana, lo sviluppo che ha avuto il vostro movimento, qual è stato? Ma lo sviluppo, guarda, sai che cosa è successo nel nostro movimento? Che quando ci siamo seduti al tavolo di prima di Lombardo, poi di Crocetta, poi abbiamo parlato col ministro, poi con l'altro ministro, poi abbiamo parlato col presidente Monti, almeno abbiamo mandato dei segnali al presidente Monti, sai cosa è successo? Che tutti quelli che venivano con noi ci hanno mandati a quel paese perché hanno capito da tempo che ormai non serve più parlare. Però in un paese normale, quando tu guidi il movimento, fai il tentativo, almeno lo poni sul tavolo il tentativo, di dire risolviamo democraticamente quello che si può risolvere. Siccome poi alla fine ci siamo accorti che i tentativi sono tutti inutili, con una classe così, con una classe dirigente di questo tipo, allora a questo punto abbiamo detto una cosa, ora vi mettiamo le mani addosso, con le mani in tasca però, perché noi giorno 8 scenderemo sulle strade pacificamente, senza violenza, speriamo che non ci sia qualche malato di mente, che io spero che le forze dell'ordine arrestino subito, perché significherebbe fare un favore a Letta e al sistema. E allora noi con le mani in tasca vogliamo dire solo a questi signori, o ve ne andate con le buone, o ci ridate la democrazia, o siamo pronti a fare tutto quello che verrà dopo, cosa che poi alla fine, devo dire la verità, non sappiamo che cosa accadrà, anche perché si tratta di una manifestazione nazionale che sicuramente vedrà la partecipazione del 50% degli italiani che non sono andati a votare perché non credono a nessuno, credo anche di parte di quel 25% che ha protestato votando Grillo, e credo anche parte del sistema che ormai si sente deluso da questo sistema che non funziona più. Oh, per chi volesse capire, perché stai parlando di numeri insomma importanti, poi lunedì vediamo, però per chi volesse capirne di più, voi cosa avete? Delle pagine Facebook, un sito in cui spiegate queste cose, che siete, che cosa volete e così via? Puoi dirlo, perché qualche ascoltatore chiede. Guarda, una pagina Facebook che si chiama Popolo dei Forconi, Movimento dei Forconi, pagina Ferro Sgalato, pagina ufficiale e gruppo ufficiale, soprattutto sul gruppo ufficiale abbiamo tanti iscritti, ma non è quello, guarda Oscar, qui il problema è anche questo, tu hai detto poco fa una cosa sacrosanta, quale? Qualche rigo sul giornale nazionale, sui giornali nazionali, non ne parlano, non ne vogliono parlare, ti ricordo e ricordo a chi ci ascolta che l'anno scorso la Sicilia era tutta fuori. La Sicilia di solito non è una terra rivoluzionaria, è una terra che tranquilla, calma, che sa adagiarsi al sole e che sa fare la siesta. L'anno scorso questa Sicilia non la riconosceva più nessuno, però per 3 giorni e mezzo non ne ha voluto parlare il sistema. Benissimo, questa volta io credo invece che ne parleranno prima, anche perché da lunedì sera vedranno i numeri che a poco cresceranno, non sarà lunedì sera il colpo quello grande. Io penso che come state dicendo, il crescendo sarà il 10, l'11, man mano che gli italiani capiranno che c'è qualcuno che vuole fare questa ribellione di popolo verso il sistema. Io credo che aderiranno tutti. Allora, noi adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, ricordo a tutti che l'incredulità nei confronti del fenomeno dei Forconi in Sicilia, che fu tangibile, poi quando poi ci fu il voto in Sicilia per i partiti fu una bella sorpresa. Vi ricordate che la Sicilia è stato il primo turno elettorale nel quale il sistema dei partiti è in buona sostanza saltato, semplicemente perché le proporzioni del non voto siciliano, quindi del rifiuto del voto di scambio tradizionale, e poi l'esito in Sicilia dei 5 Stelle e poi anche la presidenza Crocetta, che da questo nacque con una solita soluzione improbabile, scusate se ve lo dico, confermò che proprio in Sicilia si erano visti i segni di quello di che cosa? Di una frattura profondissima tra l'opinione pubblica, la pancia del paese, la testa del paese, perché quando si dice la pancia si ha sempre l'idea che sia la parte irragionevole, no, come nel vecchio apologo, no? Vi ricordate della plebe che fa secessione a Roma, il problema è che la pancia diventa poi il problema della testa di un sistema politico che non funziona bene. Ho preso altri secondi inutilmente, strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua a 16:48, 20 secondi. Molti ascoltatori mandano messaggi un po' increduli, parecchi se la prendono con me, dicono: ma come? Ma li conosci? Ma come fai a condividere? Ma li hai mai visti in faccia? Ragazzi, io su questo sono un po' tosto nel rispondervi. Guardate che il problema non è gestire il microfono qua facendo parlare solo chi la pensa né come me né per definizione vicino a me. Il problema è che quando c'è un paese scosso dalle fondamenta, da cose così evidenti, gente che i partiti continuano a non capire, beh, per me è un dovere elementare capire chi organizza le cose dal basso. Questo può riguardare i 5 Stelle, può riguardare i Forconi, può riguardare quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, può riguardare, lo faremo nei prossimi giorni, anche gli indipendentisti veneti, perché mettersi le mani di fronte agli occhi e le mani sulle orecchie, quello è un atteggiamento che lascio volentieri ai politici che hanno delle responsabilità. Qui il mestiere che dobbiamo fare è un altro. Quindi il problema non è che io condivida o meno dalla prima all'ultima parola, il problema è che loro, come hanno fatto vedere in Sicilia, sono una roba che c'è, e sono una roba che c'è perché dentro c'è la rabbia, e secondo me la rabbia bisogna guardarla in faccia e bisogna ascoltarla. Poi sull'euro, non sull'euro, non è che io debbo condividere, bisogna che farli sentire con pezzi di informazione loro, perché loro esistono, loro si sbattono. Poi quando fanno i blocchi c'è tanta gente che ci va di mezzo, e chi lavora pagherà un prezzo, lo so, esattamente come tanta gente non lavora più perché lo Stato ci mette le mani nelle tasche, però so anche questo, solo che lo Stato non si ferma. Allora, due rapidissime telefonate e poi torniamo con Mariano Ferro. Cominciamo con Giuseppe da Milano. Prego Giuseppe. Buonasera, sono in linea? Sì, è in linea. Prego, prego. Buonasera, mi scusi, buonasera. No, volevo dire che la soluzione per me, come ribadisco da tempo, già anche con tutte le persone che si parla, è un po' la riforma della magistratura. Perché dico questo? Perché io non credo che delle persone nuove piuttosto che riciclate possano dare una soluzione al problema. E perché dico la magistratura? Perché purtroppo non sono giustiziere, però chi sbaglia paga. Siamo in un'Italia dove anche chi ha ragione paga a discapito di chi non ha ragione. Gli posso portare un discorso personale, ma evito, nel senso, certo, di problematiche dove io ho ragione addirittura in Cassazione. C'è un giudice adesso che mi sta facendo fare un altro processo perché cioè, qui andiamo avanti 20 anni per aver ragione e altri 5 anni perché questo giudice debba darmi una soluzione. Ok, quindi, Giuseppe, quindi tu vorresti una responsabilità. Hai detto il principio, chi sbaglia paga, deve valere anche per i magistrati. Sentiamo Cristian da Chieti, prego Cristian. Buonasera dottor Giannino. No, Giannino e basta, sennò poi mi fa... È un onore, pago ed è giusto, si figuri. Allora, sono certo a pagare, è una delle uniche persone serie in Italia. E volevo dire una cosa, tra le tantissime, ma una su tutti, la Coldiretti, no? Io faccio l'autotrasportatore. Coldiretti, quella che ieri ha bloccato il Brennero col ministro. Sì, io ho fatto l'estero per parecchi anni con il camion, e sono stato uno di quelli che stava la cisterna, caricava il latte in Germania, caricava il latte in Polonia e lo portava in Italia, presso aziende che dicono di vendere solo latte italiano, ma il paradosso è che poi qua in Italia c'erano i nostri agricoltori costretti a dover pagare delle multe. Quindi lei dice, Cristian, non è che lo scopriamo oggi, si sapeva da un bel po'. Ecco, siccome secondo me hanno carenze, cioè, si ritrovano un sacco di tessere ora così da non poter fare più. Hanno capito adesso che devono iniziare a protestare. Va bene, io trovo un po' singolare che ci fosse il ministro ieri lì, devo dire, l'ho scritto su Twitter, perché francamente il ministro che si mette a fare i blocchi, il ministro ha altri strumenti per intervenire. Comunque, detto tutto questo, torniamo con Mariano Ferro. A chi dice, ho capito, ma se ci bloccate noi non possiamo lavorare quel giorno, la risposta, Mariano, che date voi dei Forconi qual è? Bello sarebbe rispondere a questa signora, ma perché noi non abbiamo un diritto al lavoro? Se dobbiamo convivere in una società civile, voi pensate tutti quelli che lavorano oggi, pensate voi che possiamo convivere in una società dove c'è un'impresa che non può pagare le tasse, che viene massacrata da Equitalia, viene sequestrata, viene pignorata, viene passata all'asta, non deve dire più niente a nessuno perché quello è un rifiuto di questa società? Pensate che sia una cosa normale, civile, di un paese del G8, che era un paese del G8. Era, no? Infatti hai fatto bene a dire era. E allora che facciamo? Allora la guardiamo, ci giriamo dall'altra parte, diciamo che il vicino di casa, siccome l'imprenditore oppure l'operaio che ha perso il posto di lavoro purtroppo non può andare avanti così, e allora lo buttiamo a mare perché non abbiamo più bisogno di continuare. E allora di che cosa dobbiamo parlare con questi signori? Perché guarda, l'Italia è fatta di... tutto quello che è stato il tessuto produttivo italiano è stato massacrato da questa globalizzazione scellerata senza regole. Voi ieri per esempio la Confindustria ha detto che si è sdegnata del fatto che ci fosse il ministro, no, forse perché probabilmente si dovrebbe permettere ai prosciutti dell'Austria di diventare prosciutti di Parma, però gli abbiamo dato anche il DOC, abbiamo dato l'IGP, abbiamo tutte queste stronzate, diciamo, che abbiamo fatto per l'agricoltura, su cui ci siamo battuti, per poi alla fine prendere i prosciutti che vengono dalla Cina e portarli a far diventare, o il ciliegino che viene dalla Cina, lo facciamo diventare il ciliegino di Pachino, no? Ora, io mi sono sdegnato di un fatto ieri del Ministro, dell'esatto opposto, il fatto che il Ministro avrebbe da fare, anziché i blocchi al Brennero, benissimo, avrebbe da andare a Roma a fare sanzioni per chi fa queste frodi alimentari, ma sanzioni, che significa sanzioni? Che dovrebbero togliere, far togliere il vizio a questi fraudolenti che fanno questo lavoro e che portano nelle tavole italiane il veleno che arriva dalle altre parti. E questa è sempre stata la mia opinione. Senti, dopo lunedì che cosa succederà? Una serie, una stagione di cose come quella di lunedì? Vedrete come va? Che bisogna aspettarsi? Guarda, io mi aspetto una cosa lunedì, ed è quella che abbiamo vissuto l'anno scorso in Sicilia. In Sicilia l'anno scorso eravamo una cinquantina per tutta la Sicilia, sparsi per l'intero territorio. Strategicamente, nazionale. Sì. Sì, quest'anno siamo molti di più nei vari punti che si sono messi in moto, e credo a macchia di leopardo, diciamo, e quindi così vedremo l'effetto. Mariano, il tempo è finito, ma noi il nostro dovere di dare il microfono a chi protesta lo facciamo. Non significa sposare, significa assolvere al proprio dovere. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.